tutto insieme. E oggi io quando ti arrivo alla città di Porto Torres? Beh, come sempre, è sempre uguale il tuo segnale. Come sempre, a 9. Beh, signori, io vi saluto, buona serata, dai. Ciao a tutti. Ciao Robè, avanti, riprendi tu e sto chiudendo, ciao. E beh, Luca, che studiando stai tu? Sto studiando, Robè, non c'ho, tempo... No, niente ancora, Robè, nulla. Mi ci devo mettere, però piano, mi devo... Devo avere l'input, una volta che c'ho l'input, là sì, non ho ancora l'input di poterlo fare. Ecco, ma tu io 10 minuti adesso, 10 minuti più tardi, in modo senza impegno, come ho fatto io, perché io non avevo gana lo stesso, poi piano piano mi sono messo per un mesetto studiando 10 minuti per volta, ogni tanto rileggevo, così, nei tempi di pausa, anche in gabinetto mi portavo il coso, il formulario, i questionari e cose. Ok, comunque ben sentito Luca, chi tocca adesso? Avanti Natali. E cosa? Gianni mi arriva a 9.50 qua. Aspetta che c'è uno che sta chiamando, avanti. Chi sei? Sì, Santiago 9, sì, Gianni, Giovanni, ti ascolto bene. Vediamo se quello più vicino di Porto Torres, Eugenio, ti ha ascoltato. Hai ascoltato Eugenio, Giovanni? No, riprende, cioè, fare un passaggio. Sei a Platamona? Che è Platamona? Dove sei? Che zona sei, Giovanni? Giovanni? Giovanni, ha detto Fritz. No, l'ascolto male, l'ascolto un po' basso. Qua arriva 9, vediamo se gli altri l'hanno ascoltato. Gianni, un profeta, ascoltatela. Ehi, ha fatto un passaggio, Santiago 3, piccola parentesi, Robè, io mi ricordo che ti avevo lasciato il numero di telefono, però non mi ritrovo il tuo, ho cambiato telefono, quindi non ho più il tuo numero di telefono, forse ce l'avevamo scambiato, mi dai conferma? Ma ti faccio lo squillo e te lo memorizzi. Positivo, ok, dai, via avanti. Facciamo sentire Natalino se ha ascoltato l'amico Giovanni dal Bettina. No, non l'ho ascoltato, la verità, Aspetto Giovanni terzo pettine, ma stavo durando. Giovanni terzo pettine, avanti se ci sei batti un colpo. Stavo parlando l'altro giorno, era in macchina, era dove era? San Corsolo in macchina, ho fatto l'ho perso. Aspetta, Gianni, un profeta ti ho mandato uno squillo, non ha risposto, questo è il mio numero. Eia, sì, ho capito, adesso me lo rimemorizzo, siccome ho cambiato cellulare e non mi risultava, dai, comunque, adesso me lo rimemorizzo. Continuate. Non darla a nessuno, se deve darla a qualcuno chiedi prima a me, mandami un messaggio, perché ho cambiato un numero di recente proprio per non avere rompimenti di scatole. Ok, Gianni. No, tranquillo, no, sei in una botte di ferro, no, non i vostri gassati ruggere. Non c'è problema, ok. Eugenio, avanti di nuovo. Allora lo invitare anche a me, Robbo, io sono geloso. Ciao Robbo. Ciao, a te ti do il mio numero privato, così la notte facciamo le zozzerie, Eugenio. Ah, io mi devo essere così diventa rosso. Adesso facciamo rientrare a torre di controllo. E Becla, come siamo? Sì, un po' meglio. Anche l'aria in fase di ripresa, tutto qua. Ero seduto mio divano, ho sentito la tua voce, sono entrato a salutarti. Agli altri li ho già salutati poco fa. Sì, dai, ben sentito anche a te. Natalino, Alfa 1, a te il mic. Ciao Fla, buonasera, ben entrato. Ciao Natalino, buonasera anche a te, ben ascoltato. Non sento poco fa, c'è stato Natalino, qua sta arrivando benissimo. Luca, Marionisi, Santiago Nova, Radio Super 5 qua. Penso che c'è questo Giovanni da Platamona. Giovanni, ci sei ancora? Guarda che ascolto bene, Santiago 9 Radio 5. E oggi tu l'hai sentito? Sì, già l'ho sentito, basso, ma l'ho sentito. Ciao Giovanni, se mi ascolti. Platamona per me è un pulcino di fronte, non lo so. È zona d'ombra, non lo so. Ciao Giovanni, se mi ascolti. Stavo dicendo, ogni volta che entri e riesci, Claudio, a me mi devi salutare. Oh, c'è una volta che non ti ho salutato poco fa, ho detto rimango in ascolto, ci sentiamo dopo, e tu mi hai detto sì, va bene. Ok, così va bene, per adesso sei rientrato, mi devi fare un saluto particolare a me. Ai, Chihuahua, ciao. Claudio. quello dei condizionatori mi presta una scalata di 10 metri, non solo d'altro. L'ha trovato mia moglie stasera e ha detto che me la dà. Hai il trattori e tu dici pirati, basta chiedere. Ma va, vi dimmo, a forza di Maragana abbiato. E se ci dava qualcuno ti ricordo un pugno al naso, cazzo di un grido. Sento cosa c'è i coltelli. Ehi, ma io c'ho la pistola. Ah, ci va, fai girare tu, vai. Ciao Giovanni, buonasera, me l'ha ascoltato, io sono Claudio Sparviero, Chihuahua mi chiama solo il mio carissimo amico di Porto Torres. Allora vedi, così ti voglio. Ce lo possiamo interrompere, io per lui sono Chihuahua, e lui per me gli altri, e per gli altri sono sempre Claudio Sparviero, numero uno in assoluto come Magna Bosco. Magna Bosco? Aiazzone? No, Magna Bosco era il numero uno, se tu chiedi a Marco, Magna Bosco era il numero uno, poi è andato Aiazzone. Prima di tutti c'era Pino Mu, prima c'era, adesso non c'è più. Ecco. Cosa hai detto Giovanni che ti hanno calpestato? Ti ha fatto il tuo nome chi? Ah, non sono nato, stai dicendo. Sì, salutamelo se lo vedi, salutamelo, sì, non mi come. Non ho più sentito, però se lo vedi o lo senti, visto che lo conosci, salutamelo. Mi ha fatto piacere che ti ha mandato i saluti per me. Ok, faccio girare per Roberto, avanti cambio. Ehi, a chi è di Pattada? Stavo leggendo su internet, questa tipa sta vendendo attrezzatura, baracchini, antenne, un sacco di roba, cordature, amplificatori. Cosa hai detto Giovanni? Ma ti sei... Scappa, ti sei un po' abbassato di segnale, prima eri più di 9, adesso sei 8. Come mai Giovanni? Ma sei dentro la macchina? Eia, ok, ti sei abbassato parecchio di segnale. Vediamo un po', Natalia, come fai a sollevare una scala di 10 metri, Natalia? Con le mani, come ti fai i miei bobbini? Da solo, non lo so come, non è semplice. Io lo so fare, vuol dire. Sono bene, Natalino la pompiere. Natalino? Sì, Natalino, e allora, ho fatto meritare a pompiere. Non lo sapevo, cazzo. Non lo sapessi che era solo un bravo pasticcere. Cazzo Natalino che fa il tutto. E non so, sa mettere anche la scala dritta e sa salire anche con la scala dritta senza appoggiare al muro. Allora era con cosa? Con Benito Urgua, Cicco Zanfretta, mi pare, Natalino. E allora? Lascia loro, beh, a me, a tirare su, elementi, mica 10 metri lunga, sarà elementi, elementi, metti gli elementi e tiri su, è normale, no? Ma non è tanto coso, ci vuole uno che te la sollevi, te la notano 10 metri e non è uno scherzo a sollevarla, anche se è in alluminio, però, cacchio, bisogna metterlo, gli ultimi due elementi non è uno scherzo a metterli su. No, quella c'hai piantoni sotto, che già la conosco, quella 10 metri ce l'avevamo anche noi al lavoro. C'ha i piedi sotto, quattro piedi, è bella stabile, e poi è scorrevole, non è che devi agganciare, scorri e metti i perni, scorri e metti i perni, no, una bella scala quella, cazzo di quanto costa una scala del genere, no? 350 euro costa. Ma quella scorre non è come quella che c'è in officina, l'alluminio che metti i pezzi sotto. No, quella è... quelli che superano i cementi sono a scorrere con i perni in acciaio che entrano dentro, ma stai scherzando, con i perni da 12, no, quella è una bellissima scala, costa un pacco di soldi, se la usano gli impiantisti che salgono a 7-8 metri, a... sono 3-6, 9, anche a 3 piani salgono con la scala per attaccare i condizionatori fuori dalla in facciata, ma stai scherzando, già la conosco quella scala, che è poco gusta, e poi è sicura perché non c'ha, sopra c'ha i piedi, capito, il primo elemento c'ha quattro piedi che appoggiano a terra, ma piedi con la piantana, mi. Sì, sì, ho capito, già le ho viste da bricco come quelle scale, no, no, sono di lusso. E io ne ho qualcuna di quelle vecchie in legno, che mi ha dato un amico dell'Enel, quelle piccole, di quelle in quel legno super stagionato, però cacchio, ne metti due pezzi, il terzo pezzo non ce la fai da solo, quelle che si incastravano in legno, te le ricordi delle vecchie della Telecom o dell'Enel? Sì, anche vicino al fuoco inizialmente avevano quelle scale. Ma pesa nel bocco, tutte rinforzate dove incastrano il metallo, eccetera. Ok, e dovete andare al Duomo, che c'è quella scala che hanno cambiato le lampadine dentro la cosa, la cupola, chi si allonga, mi pare arrivi a 15 metri, se conosce il prete, vai, se la fa prestare, c'ha le ruote, la puoi trasportare, un po' più lontano. Io non solo conosco il prete, io conosco il vescovo, addirittura. Ci siamo abbracciati al mercato che c'è qua, non se lo lasciamo. Col fresco, certo, persona impulsati. Facciamo vedere avanti l'amico nostro di Porto Torres, carissimo, splendido Eugenio. Anche mia moglie conosce bene il vescovo, il Pacaridai, ma vabbè, solo per lavoro, personaggio, mamma mia. C'è stato di peggio. Giovanni da Platamona, vediamo se c'è ancora. Non c'è più, già nel Bloffetta, beh, complimenti per gli apparati, belli veramente. Ehi, dai. Roba piccola. Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Questo c'è, dai. Adesso, giusto per accontentare Eugenio, ogni tanto faccio rullare l'altro, quello nero. Oggi sto usando quello grigio, dai. E niente, c'era anche Alessio, non so se che fine ha fatto, Giovanni lo sento ogni tanto pio pio, non so se è in movimento o se è fermo, comunque lo ricevo, basso, ma lo ricevo, avanti Cla. Però ciao già di nuovo, però questo li fa sempre vedere all'altro. Nemmeno neanche a paragone, sia come trasmissione come tutto, però sarà una bella radio, c'ho anche io te l'ho detto, però ma non mi piace, è troppo complicato, poi non c'è potenza, una radio del genere cazzo, con mille frequenze, quando mai non fai per dire due potenze, sì già ce li ha due potenze, 3 watt, 5 watt, cazzo fai 5 watt, 15 watt, no, invece è una grandissima gaggada, e non si può neanche tirare, perché non so se l'hai aperta dentro, hai visto come è fatto, è tutta fatta digitale, tutta schede, no? Non ha tre mirini da come il 3009 che puoi abbassare e tirare, è fantastica quella radio, quelli sono un baracchino quello, vabbè, comunque, il tuo invasi 7 a 0 oggi, 7 a 0, una la Berna entra invasi all'altro. Questo è bello, il superstar che sto usando io. Certo che ci si prestava un grandissimo baracchino, io l'ho avuto il 2009, il 2006, funzionano molto bene, sono dei baracchini affidabili e vanno molto bene, poi vabbè, baracchini ce ne sono tanti, però sono molto affidabili questi superstar. Va bene, riprendi robe, dai. Ma quello nero che cos'è? Come è marchiato Gianni? Intec Galaxy Uranus. Ah, ho capito, sì. Ma questo Uranus ne faceva anche una versione base, o sbaglio? Non voglio dirti sciamesse, ma non lo so, non credo. Penso che faccia parte della famiglia Galaxy. Questo mi sembra di sì, poi non ho... Qualcuno più preparato di me ti può dare conferma. E quel microfono ti piace già? Eia, sì, va benissimo. Già, un altro livello, dai. Un altro livello, va bene, beh, accoppiato con quella cosa lì va benissimo. C'è anche il Turner più 3 dentro la scatola. Ascolta Natalia, ma la fotografia la posso girare, Eugenio? Mi dai la conferma? Ehi, digli stai zitto però. Va bene. Vieni Genio, vieni avanti. Vai tranquillo, Natali, vai tranquillo, che io sono cresciuto in un mondo dove ho visto, ho sentito, ma ero sordo e cieco, non ti preoccupare. Dove eri tu, a Siracusa o a Agrigento? A Siracusa, a Bancali. A Bancali. Ok, adesso facciamo entrare di nuovo Giovanni da Platamona se ci ascolta. Ci sei Giovanni? Sì. capito con chi ti devi rivolgere. La comprare davanti? Che tipo, però ti abbassi di segnale, non capisco. Ma sei in movimento o sei fermo? Scusate il telefono un attimo. È arrivata la gazzella. Oi, oi, oi. Arrivata, Eugenio. Allora, rimango in ascolto, io che c'ho gente, ci sentiamo dopo se ci siete. Andave, andave. Che lo difendi, no? Ebbene, Eugenio, vista vai. Sì, dai, l'ho vista. Sono rientrato, scusatelo, al telefono. Stavo dicendo, Giovanni, stavi cercando un'antenna, che antenna stai cercando? Ma scusa, vuoi un'antenna per la macchina o un'antenna a base? Che già si trovano, a voglia che c'è qualcuno qua, qualcuno di voi ha qualche antenna da vendere o da scambiare con Giovanni? Ah, non c'è più nessuno qua, avanti, oggi ci sei. Certo, io sono sempre qua. Sono sempre qua, no, mi dispiace, no, non ce l'ho. Antenna proprio, ma fissa per casa. Si lavora per fissa per casa, è stata una base. No, negativo, niente. Ma chi ce l'aveva una Game Master che se ne voleva disfare o di quelle anche autocostruite? Qualcuno qua l'ho sentito. Natale niente ne sai. Giulio. Ma qua dallo in radio, sinceramente, se c'è qualcuno che ti conosce, ti conosci qua dalla radio. Non lo so, ma tu vivi di lì al terzo pettine? Ma scusa, non ho capito questo parte. Sei il terzo pettine al centro commerciale o di lì vicino? Sì, ho capito il maneggio, ok. Ma Natalino ci sei ancora? Serra Longa. Come? Serra Longa. Serra Longa, chi è che ha parlato? Al maneggio del terzo pettine. Ma da Mario? Da Murcia, quello che c'ha il fornitore sulla VB1. Era mio zio. Era, perché è morto. Ma cosa è morto? È anziano, ma non è morto. Mario Murcia. Era mio zio, infatti è chi muzzo. No, hai capito, da mio zio ho detto, da era mio zio. Ah, ho capito, ma è stato doppio rumo, ciao Gianni. Poi chi c'è? Natalino, Gianni Rubloffetta e Claudio, ancora ci sono. Buonasera a Toro. Presente. Claudio. Si è spostato, Roberto. E cosa, Natalino? Beh, Giovanni, cosa ha detto? Vi abita al maneggio. Vicino al coso del maneggio, non so se esattamente abita di lì. Sta cercando Gianni un'antenna per la stazione fissa, perché lui sta utilizzando quella della macchina, ma non è che si riesce a far sentire forte. Qualcuno lo ascolta, qualche altro molto meno. Senti, qualche ce l'aveva una Game Master da recuperare, Gianni? Proprio tu. A me stai dicendo? No, io non ne ho. No, qua in frequenza c'era qualcuno che ne aveva un'auto costruita, buh. Ho detto Giulio. Ah, Giulio, ma Giulio la sta usando, mi sa. Giulio l'ha data a nipote, perché ne aveva fatto la Game Master originale, ce l'ha fatta ritornare e ne ha dato quella che ha autocostruito lui. Poi ce ne ha fatto altre, non lo so. Non lo so, ma qualcosa io ho sentito, qualcuno che c'aveva qualche antenna, doveva toglierla, non lo so. Comunque Giovanni, se metti un'antenna, già qua ti sentiamo abbastanza bene, se metti un'antenna riusciamo a sentirti molto, ma molto meglio, e soprattutto riesci ad ascoltare tu, perché con l'antenna di macchina di lì sei un po' negativo per certe persone. Ok, chi tocca adesso? Rubro, fettate il mic. Dovreste ascoltare più forte di tutti, probabilmente Gianni doppio room, confermi Giovanni? Va benissimo. Aspetta, ho parlato sopra Gianni, ho detto chi ascolti più forte di tutti è Gianni doppio room, perché lui per quella zona è favorevolissimo. Come ascolti Gianni a Giovanni? Quasi no, non ci credo comunque, non ci credo a quello che ha detto, si sta confondendo. Che cosa? Che ascolta meglio a te di me, non ci credo. Che cosa ne so già, io l'ascolto Santiago Nova, adesso questo passaggio è un po' di meno, non è una donna prediletta per me, però non so, forse io ho qualcosina in più rispetto a te, ma questo c'è per una diecina, non di più. Ma mai... dammi un controllo di radio segnale, quanto ti sta arrivando? Dai, segnale, dai, magari c'ha quelli con le lucette, quello con le lucette c'ha l'indicatore, Giovanni. Cioè supero il 9, io e Gianni lo superiamo il 9. Ora, canale 10, prova di segnare, guarda un po' se supero il 9. Io ho capito, ma devi guardare quelli che ci sono sopra, qua c'è la 48 tu. Sette. E Gianni quanto ti arriva? No, guarda, 1, 2, 3 prova. 7, 8 già. Ma è perché arrivavi più forte di tu? Non lo so io, già non lo so io. Ok, dai. Ok, io devo fare altre cose adesso, dai, ci sentiamo Mario, se coincide dopo, saluto a tutti, saluto l'amico carissimo di Porto Torres, Eugenio, Gianni, Natalino, Gianni Brofetta e Giovanni. Ciao a tutti, io faccio QRT. Ciao ciao, alle prossime. Ciao, vabbè, ci sentiamo, ciao. Giovanni, salutami a Mario quando lo vedi. Gianni, cosa ha detto? Mario Fattata. Diciamo, sì, sì, che lui è di quelle parti lì. Cosa ha detto Gianni? Lo farò con piacere. Attento, non lo senti oggi, è più vicino a te. Non sento, no, lo sento, zero. Capito oggi, ha detto che ha comprato tutto lui, che non c'ha più niente quella persona. Ma mi sembra strano. Tutto è possibile. Capito oggi? Ha detto che c'ha tutto il gigli, capito? Quindi ha venduto tutto per quello. Ma i cavalli li sono rimasti però. Boh, non lo so, i cavalli rimasti sono. Quelli che fanno... venduti a carne, dice che mi ha. Ma venduti, A carne, di la macellata. Ma non ci credo manco, insomma, neanche se lo vedo, lui lascia fare. Ma sono tu, si dice che sono da corsa, sono cavalli da pareggio, che te ne, non vanno mai a mangiare. E che è rimasto qua, dai, avanti. Roberto se n'è andato, lo saluto cordialmente, mi sono dimenticato di salutare. E poi chi è rimasto? Tu profeta ci si. Sì, dai, prendi il microfono e colgo l'occasione per salutarvi, dai, Giovanni lo sento più, saluto anche a lui se mi copia, saluto Eugenio, a te e a tutti gli ascoltori, dai, ci sentiamo più tardi, alle prossime, buona serata, buona carica, Cibirius, ok, ciao ciao. Ciao già, ci sentiamo, vai, ciao ciao. Dai, riprendo fra 10 minuti, ragazzi, che vado a prendermi un pastiglione. Ciao, a dopo. Ciao Gino, ciao anche a Gianni, dai. Non so chi ci sia rimasto. Claudio, sì sì. Ai ai ai, e cosa, come te lo bagni il becco? Ah, ecco. Interessante che sia a voi. Cavagata. E io... io avevo un bianco di sosso che era veramente buono, molto buono. No, non ho capito. Lei aperta non vede più uscire. Ho detto lei aperta un'ora fa e non ce n'è più. Ah, pensavo di aver vinto tutto. E vabbè, piano piano dai. Se c'è tanti tanta zitta, come ti si guardi, no? Io sono a Sassari. Sono a Sassari, torno a mia bandetta. C'è perché lineare in macchina. Come ce l'ha l'antenna con la manina? Adesso sono uscito più basso, perché? Da 7 si è andato a 5 di colpo. Bisogna vedere che capi gli ha messo. Magari gli ha messo capi fini che adesso brucia di sì. E Santiago 5 da 7-8 che arrivavi, 7,5 dai. E, ma non c'è bisogno di lineare, di Aplatamone arrivi da tutte le parti. Io dalla macchina da Aplatamone arrivo 9-8. Bisogna avere una buona antenna e basta. Cosa sei? Ma quale impianto? Quale baracchino? Ah, sei da Trinity, che arriva in Santiago 5 adesso. Da 9, da 7 e mezzo si è passato a 5. Oggi occhio che lo pigliamo con virus. Sono a parte di scherzi, ci vuole capo adeguato, capo un po' più grosso. Specialmente se metti il lineare ci vuole capo grosso, non ci vuole capo fino. Ma è l'assorbimento che c'ha, poi non devi mai parlare con lineare con molto rispetto, che se no ti caricheggia la batteria di gol. Ma spiegami perché 605 scivi più forte prima, ma ti sei spostato? Ah, devi mettere capi più grossi. Soprattutto ci vuole un coso, un fusibile, perché se succede qualcosa a parte il fusibile non ti brucia il baracchino oppure il lineare. Se sta muovendo così è perché c'è stazionario, hai stazionato l'antenna. Ma cosa c'è? La magnetica. Ma con base magnetica è attaccata. Adesso tu dal capo stai modulando. Ah, cazzo. Occhio che non ti prende fuoco. Cosa? No, prova. Già, dove stavo arrivando? Sta trattando. Santiago 9, 9 qualcosa sta arrivando qua. Io l'ascoltavo 8, poi si è abbassato a 5. Vabbè, è buona. No, Santiago è 9 qualcosa, dai. Ok, scusa, continuate, sto facendo una cosa, ciao. Ciao, vai, ciao. Avanti, ci sei, Mario. Oh, già. Cosa, Mario, non ho capito. È entrato, 8 e mezzo adesso sta arrivando. Santiago 3 quarti. Ma ripeto, perché tu sei a metà strada, Mario? Vabbè, giusto, giusto. Io sono in metà, non è proprio, diciamo, ottavo, ok. Avanti Giova, Santiago 8 sta arrivando, Giova. Ma dove sei? Sopra un cavallo sei, Giova. Pensavo che sopra un cavallo di Maglia Musa, boh. Ok, dai, continui, già riprendi. Mi ha detto che ha comprato tutto lui. E Mario, tutto ha venduto. Ok, auguri. Meglio così. Avanti Giova. Ehi, vabbè. Ce l'avevo tanti anni, mi fa. Poi la campagna lì, lo zio di mia moglie, la campagna proprio a fianco, c'aveva questi cacchi con i cimoni, mamma mia, piccolini ma con i cimoni. C'è un bel terreno, c'è un bel terreno. Salutamelo Giovanni, da parte di Pala, le dici a Mario Murgia, Marino Pala. Ok, già riprendi e io vi continuo, stiamo facendo una, ciao. Ciao Mari, ci sentiamo, vai. Stammi bene. Io mi assento un attimo che vado in bagno, poi se c'è l'amico Giovanni riprendo, se no faccio un po' di tira. Non c'è nessuno stasera, sono tutti i campi rintanati. Ti sono scusi. Cristian, riprendi tu, secondo, ciao, vado in bagno e qui to. Buonasera, ciao Gianni, chi sei l'altro di cui ho battuto a bere? Niente di che, a casa, lavorando, con un booty booty, e si vede un booty booty, nella macchina, io più giù la bagnatella, e sono nella barra mobile. Ma Diego sì. C'è presente la locazione del booty booty, dove c'è la spiazzata? Aspetta, Gianni, c'è presente la locazione di più giù della spiazzata? Io sono di fronte alla locazione dopo il circolo Acle, io sono più in giù, c'è la rotatoria, dopo di fronte alla rotatoria, sono a casa vedo che. Non dire male, Cristian! Dimmela! Ma stamattina chi c'era? Tua ragazza in macchina? Perché c'è andata a guardare, ci sono rimasto anche male, stavo guardando che macchina, quindi e ho visto lì. Un amico era. L'amica tua? Amico! Mi sembra che avrebbe visto quando c'è lui che smorta. No, va bene, non ho visto male. Ho visto malissimo, ho visto male che ho attaccato No, Cristian, non ho guardato perché come ho visto che c'era gente ho tolto subito lo sguardo, sembrava che volessi piangare. Stavo guardando che baracchino vivi e poi ho visto che c'era gente in macchina. Ma io mi sto usando un flusso 68. Beh, arrostito hai. Allora, 78 flusso. Ah, 68, ho capito. Ho detto arrostito hai. Cicata che buona con la fetta di fegato che mi sono comprato, bella grossa. No, mi stavo bruciando più legna che avevo messo le scatole. Ho messo un paio di stecchino e ho cotto a pranzo tutta la famiglia. Che immagino, Si accolla nella legna. Tanto il base che ho costruito io la mia era 5 mm, ma voi la bruciavi no. E sai quanto gli ho fatto quando era a scuola di quelle così lì, scale a chiuccio, la barbecue, quelle palette per il fuoco del camino, le pinze, tutte queste cose qua, c'è anche un aggiubato. Anche a un amico gli ho fatto tutto, la scritta nel cancello, tutta fatta in ferro, ma. Giovanni, che prendi il mic? Aspetta che si sta bagnando il becco, Giovanni. Ci vuole questa ora, Cosa, Giovanni? Ah, vero. Rasura. Quattro. No, dico, rasura, se parata, mi dà una pulla, vuole accompagnare da tu. E rivantaggio per i giochi, bitti, in chili. E come la natura di figli, come la natura già platamora, e bicchieri bucate. A posto, Perché fuori? Perché non sono io, secondo te, io sono in macchina del piazzale. Perché stai controllando e il vino si finisce. Cioè, hai riempito tutti i baracchini. Chi te ne ha tutti questi baracchini? Comprati, te li ha secondo me. Cosa? Perché modulava? Ah, da Pattana, tu di Pattana sì. A Pattana c'è uno che conosco, Pinocchetto. Giovanni, Giovanni, quanto è mai in macchina? Quanto è stai usando con la macchina? Tutto. Guarda, quanto è la stai usando? No, perché sulla ragazza usata stavo andando abbasso il segnale. Ah, già va bene, dai. Io c'ho piccola l'antenna, vero già? Anche io, piccoli la piccolina. Ascolta già, tu sei bravo l'antenna, Ma tu hai 10 centimetri, guarda la mia. La mia è 2 metri. La mia è 1,50. Cos'è il Midland la tua? No, la base dell'assidio, quella piatta, te lo ricordi? Della fusalera. Ah, la fusalera era buona, anche se mettivi quella che è bassa va bene. Sì, la poi trovo che ce l'ho, ce l'ho in veranda, ma lo fa accordare, capito? Ma no? Ma lo fa accordare con l'antenna. Non ci vuole accordare, ma c'ha lo stub sopra con la... Sì, mi ci vuole l'accordatore con l'antenna, però ce l'ho. No, smetto di sé. Non ce l'ho, lo smetto io. Tu mettila in macchina, un giorno me lo dici, te lo porto io, non lo smetto, lo facciamo. E qui la signora prima ho messo dalla base della frusta nera, ho messo una lem alto 1,5 metri. Ecco, tu mettici la frusta nera, che chissà pompa a voce, a vino, quell'antenna lì pompa forte, neanche se piccola pompa, di quelle caricate, di quelle che ci hanno la caricatore. Sì, sono caricato e tutte le mettite in nero. E c'è lo stufo qui sopra. Esatto, quello. La portiamo, la andiamo al quadrato e la tagliamo, sai? Appunto. No, perché se no, ma lo chiamo, lo chiamo, se no la lascia i carabinieri, dottor. Quella è un'antenna che vende un web, ti sto dicendo che c'è la Franco, California, da Coso, da Stentino, siamo arrivati a Sassa e Santiago, no, per un vicino. Ma scusa, ma se avete sentito da Itti, l'avete sentito, quando lo tantenino qui, con quella è più forte anche. Quale? Questa che c'ha? E con questa da Itti, mi avete sentito basso basso, sì, da Claudio e Coso, Antonio. Se mette l'altro mi sentono meglio forse. L'altra è caricata e non ce la incarica, capito? Ma questa c'è, già visto la sul tetto stamattina. Ah sì, la passione non osservati con quella macchina, io la metto appeso. Che vabbè, sì, vabbè, specialmente io, non faccio l'osservatore. Io peggio di te. Allora, lei, non è appeso la truppica, da un amico. Altre volte sono i carabinieri. Una volta per curiosità, ma tanto l'altra, cosa se ne fa lei? E tu? Ma sì, era il balacchino, sono dei 10 b. No, pensavo che stava intercettando a noi. Che cioè, visto, siamo andati di farlo, guarda, voi fate, vabbè, se guardi parte di me, ha bevuto, sì. Credo che l'ha bevuto, la fermetta la Coca-Cola. Ti stavo dicendo, dopo loro sono criptati adesso, non riesci più a riceverli nella frequenza loro, quindi come fai? È un casino. Non ho più belli questi temi, questa qui è una ragazza che ha avuto una trentina d'anni neanche, e lui ha avuto una quarantina d'anni. Ma di Porto Torres? È Porto Torres, come è Porto Torres. No, perché si spostano, capito? Sì, non so, non vedo qui Porto Torres, ti riconosco pure chi erano anche. Perché ci sono anche le carabiniere adesso, produttore, non ce ne sono mai state, no? Ci sono anche le donne, sono molto carine. E a me, perché a Sant'Adoro non mi ha fermato la pattuglia della stradale, tutte e due donne. E ho detto, caspita, finalmente una volta che mi fa piacere essere fermato. Due belle ragazze, loro sorridenti, eh? Che poi sono più disgraziato, Le ho detto, caspita, una pattuglia totalmente femminile, non l'avevo mai vista, lei sì, e siete anche delle belle ragazze, oltretutto, ci sono messo a ridere. Quello là che avevo sorridente, contento, dai. E se trovi quella stoppa, dice, scusi, come si permette? Ecco, ciao Gianni, Fabrizio, scusa, mi dai un controllo che sto provando un baracchino? Ma segnale? No, il segnale vabbè, un baracchino 5 watt, è un Intec 500S, FM500S, che ho modificato a 40 canali. Ah, sì, quello è 34 canali mi sa, sì, la radio va bene, è normale, ma va bene, e me la presenti, è una radio dinamica. Sì, col microfonino. Ascolta, qualcuno sul 40 per fare una prova per vedere se sto uscendo sul 40? Aiuto, andiamo. 5 minuti mi sposto. Ok, anche io. Ho fatto il 40. Fabri. C'è, ho visto. No, era giusto per fare una prova, là. Sì, esci, tranquillamente. Fabrizio da me, Santiago 9 più 5, radio 5. Aspetta un camionista, avevo forzato il commutatore dei canali e mi dava canali in più. E ho dovuto fare un po' di casino perché c'è un commutatore nuovo, poi ho dovuto aprire e modificare, capito, per darmi 40 canali. Comunque quello è un bel baracchino, io l'ho avuto in macchina, andava molto bene. Sì, no, va bene, va bene. Era questa prova qua, ho voluto fare, quindi modificarlo, giusto per farlo diventare 40 canali. Va bene, va bene, va bene. Va bene, dai, allora ci sentiamo dopo. C'è qualcuno che ti chiama da sottofondo, attenzione Fabrizio, non so se l'hai sentito. Avanti, chi mi chiama? L'ha compiato, Fabrizio. Aspetta che mi metto con l'altra, che è più selettiva, vai. Vai Giovanni. Ecco, adesso inizio a sentirti, dai, avevo col baracchino, mi veniva male ascoltarti. Ascolta mola, mi Fabrizio, non ti credi che sia lontano. C'ho un brutto disturbo, non so se voi lo sentite su un canale 10. No, io no. Allora è qua in zona, fino a 7-8 mi sta arrivando questo disturbo. Buonasera Gianni Fabrizio. Ciao, buonasera a te. Buonasera a te. Ti sto ascoltando, ma ti copre questo tutto i canali, devo avere qualche disturbo. Guardate, ecco. Questo ti sento meglio. Dai, gioco per me, dai. Ehi, a Cristian, ma infatti che è rimasto? Buonasera, ho detto Carlo da questa parte. No, Fabrizio lo sentivo bene, poi non so chi c'è, oltre forse Eugenio Porto Torres. No, se aveva fatto un attimino in bianco, non lo so se è rientrato Eugenio. Ciao, ben sentito Carlo, e cordialità anche a te. Avanti Eugenio, sì. C'è Giovanni da Platamona, se ti interessa. Senti Giovanni, vediamo se ti tiro fuori. Giovanni, lo ascolti a Carlo, lo senti? Vai, che hai detto che ti senti, non so se tu lo occupi. Io ti sento Giovanni, ma molto basso, capito? Faccio fatica, ti tiro fuori pelo, capito? Perché c'è anche un po' di QRM. È lui che è barabubile, non ti preoccupare, anche io lo sento Santiago 3. Che segnale, con che segnale lo ascolti tu? Un passaggio Giovanni, così ti do un controllo preciso. Ora Santiago 6, però la radio è molto bassa, Radio 2. Sicuramente ho toccato senza volere. E adesso già ti sento bene, infatti ho detto che strano Gianni, qua mi arrivava bomba, era un po' il segnale, non si sentiva, poi ho detto forse ha cambiato canale e quindi è finito su quello, sul 9 forse. No, essendo al buio, stavo passando, praticamente c'avevo l'RFI troppo alzato, quindi lo stavo passando e ho toccato sicuramente il clarinetto e ho spostato la frequenza, capito, senza volere. Ho capito, Giovanni però lo sento molto basso, non so se lui mi continua a sentire prima, gli stavo dicendo che il segnale era Santiago di sì, ma la radio molto bassa. Io sono piccolino. A Cristian lo ascolti, Carlo? Anzi Cristian. Io sono piccolino, Carlo, ciao. No, Santiago 7+30, Radio 4, da dove sei? Sono a Budibuti, a metà strada da Platamona. Ah, in barra mobile, Cristian? Sì, sono seduto in macchina. Bene, allora per essere in barra mobile già va bene. È grazie a te, ma che insomma, non è una tela piccolina, dai. È una tela abbastanza buona, dai. Ho capito, Gianni, già ti tiro fuori bene qua. Ah, per la mia antenna, per i giorni, quando ci sono, tutti di differenza. Quella della macchina specifica. La macchina. Io ce la tela 2 metri, io devo dire 1,50. Ho capito, no, io ce l'ho in macchina, ma ho un'antenna corta, capito, su base magnetica e quindi non esco molto forte, quando diciamo si sistema un po' il tempo, se riesco la metto fissa. Io sono su base magnetica anche io, la metto fissa in macchina, poi vuoi bucare la macchina? No, negativo, magari sfrutto il buco dell'antenna radio e poi ci metto un miscelatore. No, ci puoi mettere, puoi anche lasciarla sotto il tettuccio, l'antenna radio prende lo stesso, anche se la lasci sotto il tettuccio prende. Se prende, mi sa che allora non metto niente, così va diretta l'antenna ed è meglio. Ma dovresti fermare magari con qualcosa, perché se no ti va da una parte all'altra come fare le curve. Però sciocco, gente che l'ha fatto, prendeva bene lo stesso. Ho capito, sì, magari ci posso provare, se va anche la radio normale, allora la lascio così e collego solo la basetta con l'antenna direttamente al CB, capito? Dovrebbe andare meglio, salvo che non gli collego l'antenna della radio, di quelle antenne per interno macchina, quelle amplificate, così magari mi riceve così. Quelle tipo portabollo, come facevano prima? Capito. Vabbè, puoi fare anche così, mettervi l'antenna. Dove c'hai l'antenna? A centro capota, davanti o dietro? No, è davanti purtroppo. No, non purtroppo, va meglio che averla dietro è brutta. O al centro capota oppure dove c'è lo specchietto, la plafoniera lì. Sì, esatto, lì ci devo lavorare un po' perché è un po' sfasato, il buco non risulta proprio sopra la plafoniera, ma è un po' più spostato, quindi devo andare con una chiavetta di quelle a cricchetto, capito, un po' alla cieca per svitare e poi riavvitare tutto. Meglio si fa, l'ho fatto anche nella panda io, l'ho bucato quello io, l'ho bucato tutto il tettuccio, la panda. Vabbè, ma era già, aveva qualche anno già, non me ne fregava nulla. Era di mia moglie, ne ho messo una in quella di mia moglie e una nella mia. Un giorno ho detto, cos'è questa cosa che hai messo? Ho capito. Sì, ma adesso sicuramente riuscirò intorno alla primavera a farmi quel lavoro lì, che magari ci sono settimane di tempo buono e quindi se non piove è la cosa migliore, capito? Se è a garage lo puoi fare anche in garage, anche adesso. Sì che ce l'ho il garage, anche se lo devo un po' svuotare per poter mettere la macchina dentro, capito? Ah, ecco. Sì, il garage ti viene bene, si può attaccare il trapano di tu gara. Hanno il trapano, lo devi usare, va bene. Ma a me me l'avevano fatto quando avevo la Station Vego, me l'avevo fatto fare proprio al centro capote il buco. Non ha mai preso ruggine niente perché me l'ha fatto professionista, è la verità. L'ho portato dove piazzano impianti stereo eccetera eccetera, e è proprio un installatore, mi ha messo a cavo professionale, me l'ha tutto quanto messa una carta gommata per non sentirsi se si muoveva, non si sentiva nulla, e ha fatto proprio un bel lavoro. Tu pensa che quella tela mi dava uno e uno massimo di stazionari, o uno e uno su tutti i canali, e andava benissimo al centro capota, guarda, è il massimo. Lo so, evidentemente faceva anche massa bene, capito? Quando è così è perfetto anche per la taratura è l'ideale. Sì, infatti sulla base magnetica non è che renda tanto. Ah, io ce l'ho su base magnetica e ti dirò che mi soddisfa abbastanza, lo sai. Però ho preso con le basi magnetiche, con le grandi, a 150. Avanti Cristian. Anche io su base magnetica, da 150. Sì, Cristian, ma è 150 km orari, intendi? Cos'è il tuo bagino? Abbiamo parlato una volta, buonasera. Ciao Eugenio. Buonasera Eugenio, chi è questo in 40 che non sento più? L'ho ascolto in campagna. Cosa ha detto? Buonasera a tutti comunque. Ho sentito un borbottio. Per me è una cosa negativa, deve essere. Chi c'è in giro? Chi è in rotta? Passere Eugenio. Io Carlo, Giovanni da Plattamona, che adesso rilanciamo, e poi Cristian. E tu? Poi io sto per andarmene via perché devo portare giù il cane. Questo come mi avvisa devo andare, dai, se no cominciamo a bugnare e poi la mimura. Come si dice sassaresse. Va bene, riprendi Giovanni, riprendi tu, dai, e fai girare. Porta anche il mio, dato che ci sei. Più di la righi, non duio. Io due non li posso portare perché il mio se lo mangia qui al tuo. Ma il tuo è un cangaletto, hai capito? Appunto per quello, Allora, fate la domenica, ho i miei che hanno fame. portate i vostri da me. Magari, usate questi fazzi. Saluto a tutti comunque, ciao anche a... a Marino. No, io sono giocosa, scusate, buonasera a tutti. Ciao Carlo. Oh già, Carlo sta arrivando, il suo segnale è suo, 9.15, eh. 9.15 è spaccato, il suo segnale, Gianni. Ok, ciao Genio, c'è anche Giovanni di Sierra Longa. Beh, io già riprendi, io sono sempre in ascolto, adesso devi andare un lavoretto, va. Sì, Carlo c'è una bella antenna, dai, va bene quell'antenna. Andavè, l'interessante non è essere inferiori. Ah! Ah, no, già ho visto dove piazzato di Carlo. A Carlo lo stiamo controllando, no? Quando io ho fatto con il mezzo pesante già l'ho visto bella vista, bella intera. Bella, un'antenna è utile, eh? Una bella antenna, con i complimenti. Bene, già Carlo, riprendi, io sono in ascolto e sto facendo un bacchetto qui davanti al nostro bacco, eh? Marino, buonasera anche Antonello, è entrato e niente, io cucinandomi un po' di gamberoni al forno. Io ho messo aspettative di gambe adesso al forno, lo devo controllare, riprendi Eugenio, ciao. Ciao Marino, buonasera, mi hai sentito. Ciao Carlo, ciao Cristian che non ti sento, ciao Giovanni che non ti sento, e niente. Oh Gianni, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ci sentiamo, dai, io sto chiudendo. Sto cordialmente, anche se mi dispiace chiudere perché c'è una rotta adesso e vabbè, devo andare, dai. Il numero mi chiama. Ciao! Ciao Cristian, ciao. Ciao Cristian, ciao, alle prossime. Allora, Giovanni modula da... Serra Longa, lì a Plattavola, a questo qui. Lì si ammudola la luce. Ma la buddi buddi? Non lo sento lo stesso. Vabbè, comunque. Ciao a tutti, ciao. Io modulo a casa mia e Antonio modulo a casa sua. E tu idem. Sono in macchina, Eugenio, tutti e due, sia Cristian che Giovanni. Perché non lo senti a Cristian? No, non lo sento né a Cristian né a Giovanni. Poi Giovanni mandò la porta, ma non lo dovresti sentire. Vabbè, dai, sono in ascolto, ciao. Buonanotte, ciao Eugenio. Ciao Giovanni e Cristian. Sei di Santonello, dai. Santonello? Antonello io sarò tu? Antonello Motopompa, sì, cosa è mitico. C'è anche il tombo di cane qua, che modula anche lui col baracchino ogni tanto, capito? Quando lo lascia solo incomincia a bagliare, sembra il lupo mannaro. Tu hai un simpatico che ha detto, lui modula a casa mia, tu io modulo a casa mia, tu modulo a casa tua. Non so chi è, non conosco. Va bene, dai, che sto trasmettendo anche in WhatsApp. Ciao Genio, ciao nuovamente a Gianni e ci sentiamo dopo alle mette. Ciao, riprendi doppio. Ciao, caccia. Cazzo, sento un po' di casino qua, a fianco a casa mia. Deve essere che sta caricando la legna, quello. A meno che non stia buttando la terra in terra. No, è sotto, è sotto. A fianco proprio. A me. Il camminetto lo abbiamo di sotto, capito? E quando carica la legna, la lampa intera, bodubum. Ma vedi la serie, che stia buttando cazzo in coso, va. Pazienza, dai, ci sentiamo dopo. E cosa vai? Uno di cartoni vai. E io, cosa sto dicendo? C'è un muro di cartone qua, c'è un muro proprio di merda, da sé il forattino qua. Quindi lui senta me, io senta lui. Se io accendo lo stereo, e non sai come mi tocca il muro? 2 secondi. Ma anche messo al minimo. Vabbè, le case delle tastiere che stavo facendo adesso sono fatti di cartapesta, già un grido. Poi via, va bene, vai, io ti lascio, che vado a masticare. Ciao! Via, ciao, ci sentiamo, stavi bene. Chi c'è rimasto? Aspetta, tutti spaventi siete. No, è pieno di gente d'ascolto. compreso quel simpatico che ha detto non mi a casa mia, tu non a casa tua. Io credo che mi due anche da... vabbè, dai, sentiamo, ciao Ale, ciao ciao. Oh, non ho scherzato questo. Era Marino che te l'ha detto, ti ha anche salutato poco fa. Ah, Marino era? Eia, pensavo l'avessi capito. Ah, non l'avevo capito, allora ritiro tutto là. Se Marino può anche dirlo. No, non l'avevo, perché ha fatto un passaggio veloce, non l'avevo riconosciuto. Va bene, ciao Marino. Bacioni, ciao, ciao, ciao, vengo a masticare, ciao. A baciare, boh. Mi affranco lì. Sempre a Bozzi, che c'è? Ah, io? A Bozzi, no. Ciao Francolino. Ciao Claudio. Ciao Luigi, vai a masticare, vai. Ma ci ricuffino che sto parlando in due metri, fa. Era Marino, era Franco quello che l'ha detto, o è Marino? Ma Franco, Franco ha detto... ma quello che ha fatto la battuta, quelle sono battuti, battuta da su 5. Ah, vero. Guarda, se è un su 5 proprio, un su 5, su 5 è proprio Franco. Non ho manco l'accento di su 5, lui c'ha l'accento di tanto bello, vero Franco? Insomma, così così, Numero su 5, oggi è Vannino Pantera, quello sì che è risorso. Ma non entra mai. Ogni tanto gli assacciara. Sentito poche volte. Vabbè signore, io devo lasciare che è pronto. Ci sentiamo domani, ciao. Ciao oggi, ci sentiamo. Alle prossime, dai. Adesso mi saluto anche in due metri e me ne vado a portare, che sono già le 8:10, ma giù va. Ciao Francolino, un piacere averti ascoltato, già sono qua in quei ricchi, sì. Ehi, ciao, ciao. Ciao Eugenio. Allora, rientra a me. Ti sembra ora di entrare a te, Fra? Io sono rientrato adesso. Cerca di rientrare un po' prima, accendere prima l'apparato. Purtroppo... io lavoro, io non gioco come te. Oh, io non so, se mi devo entrare in radio alle 8:10, quando stiamo chiudendo. Che bello è così. Ma cosa ci vuoi fare? Purtroppo non è che devo stare sempre qua. Che non mi date nulla a me. Invece i danni sono più bene. Allora, c'è un campanino all'altro, e allora? Ma fai gruppo adesso. Tu devi entrare quando sono io, che così mi senti, stai bene, ti rallegro la giornata. Ma purtroppo io non lo so quando entri tu, perché lui te, o ce l'ho spento, l'ho acceso, cos'è? Non che per ora l'ho acceso questo. L'ho lasciato scaldare e poi sono entrato. Appunto, quello è bello. È il motivo in più per stare sempre davanti alla radio, con la radio accesa. Così quando entro mi senti. E poi ti fai gioco la calzetta. Ai. Per carità, Falcone. Ai, brecco. Avanti, avanti, Paoletto. Quindi mi sono dato il bombolo, dai, che poi mi allontano, comunque sono sempre qua, la radio è sempre accesa. Ciao bomboli, riprendi e fai girare. Cappa, buonasera, buonasera a tutti. Ui, ui, ui. Appena messo piede a casa, e oggi è stata una giornata un po' intensa. Meglio così, meglio così. Dai, vi saluto, ci sentiamo. Ciao, riprendi Antonio. Eia, ciao Bobo, saluto di presentito. È ben entrato. Cappa, saluto Antonio. Ben sentito anche a te. Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime. Ciao Antonio. Oi, Franco la sorso, così è. Chiava, oi Bobo. Oi, porca d'orra, buonasera. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Ma tu lo fai a mangiare? E adesso vado. Come si mangiano tutto, più non ti lasciano niente. No, già non c'è quel pericolo. A me fra 20 minuti arriva la pizza. Ma non gliela di pizza, sì. Tu gliela dici la pizza, tu. No. No, l'ho chiamata stasera. No, ma hai dato un'idea. Adesso mangio, poi mi ordino la pizza. La prima magna, dopo ti ordino la pizza. E me la vai. Davvero a posto. Oh, yeah. Sai come fa? voi, come si fa in ospedale, no? Alle 5 si fa la cena, alle 3 e mezzo si mangia la pizza. Beh, alle 5 faccio merenda.